2:30 di notte, scalzo su Facebook. Nuovo messaggio di posta. Chi cazzo è a quest'ora? Vediamo il Radio XXX combino e Will diretta ora su Ustream. Collegati, segui la diretta. Mannaggia la miseria, fino alle 2:30, io che volevo andare a letto. Oh Bino, io ci sono. Di che ci parlerai oggi? Del bar? O delle cose che combini il giorno? Oh Bino, a me risulti offline. Zuzenberg di merda ti ha bloccato di nuovo la chat. Ancora con questo spam?